Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Manuale di omosessualità di Progetto Gay, capitolo 20. Incontri gay pericolosi. Questo capitolo è dedicato agli incontri gay pericolosi. Si rivolge in primo luogo ai ragazzi più giovani, ma anche ai ragazzi più grandi che non hanno una conoscenza reale di ambienti e di situazioni potenzialmente pericolose. Tra i gay, come tra gli etero, esistono persone che ricercano sesso facile sfruttando tutte le occasioni che la rete può offrire e sono decisamente molte. Alcune classiche, come le chat erotiche e i siti di incontri, il cui fine dichiarato in modo più o meno esplicito è proprio quello di combinare incontri sessuali. Altre, assai più subdole, che colgono spesso i ragazzi del tutto impreparati. Cerco di spiegarmi con un esempio. Un ragazzo gay ha un blog o un profilo su Facebook nel quale sono contenuti dei suoi dati personali che ne consentono l'identificazione. Quel ragazzo pubblica sul suo blog o sul suo profilo dei contenuti che, a un occhio esperto, lo identificano come gay. Non è neppure necessario che il discorso sia esplicito. Con una rapida ricerca tramite Google per il cacciatore di sesso è facile riconoscere situazioni simili. Identificato l'obiettivo, in genere tramite una foto che permette di scartare subito le persone non interessanti, il cacciatore di sesso aggiunge un commento serio sul blog del ragazzo o sul suo profilo in modo da stimolare l'interesse della potenziale vittima. Sottolineo che in linea di massima il commento aggiunto tende a rispondere alle aspettative della vittima potenziale o a sottolineare l'affinità con la vittima. Stesso linguaggio, età molto simile, atteggiamenti emotivi molto simili. Riporto qui di seguito tre messaggi autentici lasciati su blog e profili di ragazzi individuati come gay da cacciatori di sesso, cioè da individui che si sono dimostrati successivamente cacciatori di sesso. Ciao. Ho letto il tuo blog e mi è venuto da piangere. Ma perché dobbiamo stare così male? Non è giusto. Sei un ragazzo così sensibile e devi stare così. A me sono successe le stesse cose. Rapporti con i miei pessimi, traumatici. Rapporti con gli amici, niente. Adesso sono solo e non so dove sbattere la testa. Se ti va di parlare un po', questo è il mio contatto. Oppure, secondo esempio, non so se capita anche a te, ma io ho proprio il bisogno fisico di avere un ragazzo vicino e non ce l'ho. Non l'ho mai avuto e mi manca da morire. Hai ragione quando dici che la masturbazione non ti basta più. Voglio anch'io un ragazzo vero vicino. Ti prego, contattami. Oppure, terzo esempio, che bel post. Mi sono stancato pure io di dire sempre bugie. Vorrei poter parlare con un ragazzo della mia vita vera. Vorrei capire come la vive lui. Vorrei innamorarmi. Non ce la faccio più a stare solo. Se ti va di parlare, io sono qui. In questi messaggi si individuano alcuni contenuti subliminali che si possono riassumere così. Sono un ragazzo come te, più o meno della tua età, e con problemi del tutto simili ai tuoi. Non ho mai avuto un ragazzo, messaggio questo incoraggiante che tende ad esorcizzare il rischio dell'AIDS. Se al primo messaggio segue una risposta da parte del destinatario, nella replica del ragazzo che cerca sesso compare subito, comunque molto presto, la domanda di dove sei, se l'informazione non è deducibile dal blog o dal profilo della vittima, e anche la richiesta di scambio di foto. Sia la domanda di dove sei che lo scambio di foto servono ad operare una selezione. Se la vittima non ha aspetto gradito al cacciatore di sesso o risiede in località molto lontana, lo scambio di messaggi è destinato a spegnersi rapidamente. Se per caso la vittima risiede nella stessa città del cacciatore di sesso ed ha un aspetto gradevole, si passa invece ad un breve periodo di contatto in chat, periodo che in genere non eccede la settimana. Se il cacciatore di sesso vede dall'altra parte atteggiamenti molto riservati, può anche decidere di lasciar perdere, Se vede invece un interesse reale, se viene richiamato dalla vittima, se la conversazione arriva presto a toccare contenuti esplicitamente, anche se moderatamente sessuali, si arriva all'immancabile invito a vedersi di persona. Ovviamente l'invito è proposto per parlare, per bere qualcosa, per conoscersi meglio. Sottolineo che il cacciatore di sesso non fa riferimenti di carattere sessuale, mette le cose sul piano dell'amicizia, tende a creare un'intimità affettuosa con la vittima, ma soprattutto tende ad accorciare i tempi degli scambi in chat e ad andare al più presto ad un incontro faccia a faccia. Riporto qui di seguito un brano di una chat di un cacciatore di sesso 32enne e di un ragazzo 16enne. I nomi ovviamente sono stati cambiati. Il 32enne comincia la conversazione. Ciao Marco, tutto ok? Il 16enne gli risponde: Ti aspettavo. Il 32enne insiste: Beh, che ci sentiamo in chat fa piacere anche a me, anzi, fa proprio tanto piacere. Il 16enne è contento. Gli risponde: Sono contento. Ieri notte, in pratica, sono stato sveglio tutta la notte e non ti dico perché. Il 32enne lo incalza: Dai su, perché? Il 16enne gli risponde: Beh, ho ripensato a tutto quello che mi hai detto ieri, cioè alla tua storia e al fatto che in effetti quel ragazzo non ti meritava proprio. Praticamente ti ha solo illuso. Il 32enne prosegue: Eh sì, in un certo senso è proprio così. Ma dai, alla fine a me del sesso non me ne importa proprio niente, però mi sono sentito tradito, preso in giro. Per me innamorarmi è una cosa seria. I ragazzi che prendono il sesso come un gioco non li sopporto proprio. Il 16enne continua: Ma sai, non sono tutti come te, e di ragazzi che pensano solo al sesso ce ne stanno e come. E un po' li capisco però perché alla fine un ragazzo pensa pure a quello, non solo a quello, ma ci pensa e come. Il 32enne prosegue: Beh sì, ok, però alla fine volersi bene è proprio un'altra cosa. Magari tu penserai che sono troppo tradizionalista, però se ti innamori di un ragazzo lo devi fare seriamente. Il 16enne gli risponde: Sono d'accordo, però alla fine il sesso c'è comunque. Il 32enne cambia immediatamente discorso: Ma tu di dove sei? Perché abbiamo parlato di tutto, ma non ce lo siamo detto. Io sono di Milano. Il 16enne è contento di questa coincidenza e gli risponde: Veramente? Pure tu? E di che zona? Il 32enne gli dice: San Siro, e tu? Il 16enne gli risponde: Io di Niguarda, allora siamo pure vicini. Il 32enne prosegue: Che ne diresti se ci si vedesse di persona così magari per bere qualcosa? Il 16enne prosegue: Veramente mi piacerebbe, ma non sono abituato ad andare nei locali gay. Il 32enne lo rassicura immediatamente: Ma quali locali gay? No, io parlo di un bar con una sala da tè, nei locali gay non ci andrei mai. Il 16enne si sente più tranquillo: Ah, ok, beh, allora per me va bene. Il 32enne lo incalza: Pure stasera? Il 16enne gli risponde: Sì, però non facciamo tanto tardi perché i miei sono una palla sugli orari, massimo alle 11 a casa. Il 32enne conferma: Alle 11 sarai a casa sicuro, ti riaccompagno io. Il 16enne gli chiede: Allora a che ora ci vediamo e dove? Il 32enne fa la sua domanda: Se mi dici dove stai, vengo a prenderti sotto casa tua. Il 16enne gli risponde: Io abito a... e aggiunge il suo indirizzo. Il 32enne conferma: Allora passo alle 6 sotto casa tua, ok? Il 16enne gli dice: Perfetto. Il 32enne offre il suo cellulare e gli dice: Il mio cellulare è... o missis, se mi dai il tuo in caso di necessità ti posso chiamare. Il 16enne gli dà il cellulare. Ok. Ecco, questo è il mio cellulare. Allora, alle 6 sotto casa mia, grazie. Il 32enne ringrazia a sua volta, grazie a te, ci vediamo alle 6, ciao, ciao. A parte il fatto che il 32enne è venuto a sapere dove abita il 16enne e anche il suo cellulare, attenzione massima, prima di dare ad altre persone indirizzi o numero di telefono, anche di cellulare che permettano la vostra identificazione. Fin qui, in linea teorica, nulla lascerebbe pensare che il 32enne sia un cacciatore di sesso. Va sottolineato che quando un cacciatore di sesso si rende conto di avere a che fare con un ragazzo che già ha avuto molte esperienze, in genere è più guardingo, perché l'altro sa come si sviluppano le cose e anche perché il timore dell'AIDS trattiene talvolta anche i cacciatori di sesso, specialmente quando avvertono di trovarsi in situazioni potenzialmente pericolose. Sottolineo che la chat che ho riportato sopra non si conclude con un invito al sedicenne da parte del 32enne a vedersi a casa del 32enne, perché la cosa sarebbe troppo scoperta e l'invito sarebbe rifiutato, ma con un invito che all'apparenza non ha nulla che possa fare pensare ad un incontro di sesso. Il 32enne della chat riportata sopra si presenta effettivamente alle 18 in punto al luogo dell'appuntamento con una bella macchina pulita e lucidata per l'occasione e per di più elegantemente vestito ma senza eccessi. Il locale scelto è di medio livello, ma il tavolo è decentrato. La conversazione reale si sviluppa più o meno così. Il testo è stato ricostruito dal sedicenne a distanza di circa 2 settimane. Il 32enne comincia. Ma lo sai che sei veramente un bel ragazzo? Il sedicenne si schermisce. Ma dai! Il 32enne insiste. Hai 2 occhi bellissimi. In questo momento, sfruttando l'imbarazzo del sedicenne, il 32enne avvia il primo contatto fisico. Appoggia la gamba a quella del ragazzo, come se la cosa fosse casuale. Il ragazzo risponde con un sorriso imbarazzato. Il 32enne si scusa. Se ti dà fastidio, la tolgo. Il sedicenne si affretta a dire: No, dai, non c'è problema. Il 32enne torna all'attacco. Che bel sorriso che hai! Hai un viso di una dolcezza molto maschile, è una cosa rara. Di nuovo il sedicenne si schermisce: Ma dai! Il 32enne continua: Sei alto, proprio una bella figura, sembri più grande della tua età e hai delle mani bellissime. Il sedicenne si difende: Ma dai, mi metti in imbarazzo. Il 32enne prosegue: Hai delle labbra bellissime, guardami negli occhi, ecco, così. Lo sai che si vede l'anima? E la tua è bellissima. Posso stringerti la mano? Dai, ti prego, sotto il tavolo, tanto non ci vede nessuno. Ecco, oh, che bello. Siediti qua, a fianco a me, ecco, sento il tuo calore, ti voglio baciare, mi mancano le tue labbra, sarà bellissimo. Il 32enne in questa situazione si porta la mano del ragazzo sul pene rigido. Il ragazzo non toglie la mano, cosa che autorizza il 32enne a tastare il pene del sedicenne, che ovviamente è totalmente rigido. Ormai il contatto sessuale è stabilito e il sedicenne ha manifestato in modo chiaro il suo consenso. Il 32enne non azzarda la proposta di andare a casa sua, ma propone di andare in macchina per stare un po' tranquilli. E dice: Ti mangerei di baci, ti abbraccerei stretto fino a farti male. Dai, adesso stiamocene un po' tranquilli, così ci calmiamo e ce ne possiamo andare un po' in macchina. Non sei solo bello, sei pure sexy. Oh, aggiunge. Se ti senti a disagio ti riaccompagno a casa, basta che lo dici. Il sedicenne si affretta a rispondere: Ma dai, non c'è problema, un po' di imbarazzo c'è perché è la prima volta, però è proprio bello, la spinta sessuale la sento fortissima. Prima, quando mi hai toccato, beh, stavo proprio per venire. Il 32enne prosegue: Io adesso penso di essere in condizione di uscire. Il sedicenne gli dice: No, beh, io no. Aspettiamo ancora un po', così proprio non posso. Il 32enne lo guarda e gli dice: Ma sei proprio bello. Il sedicenne risponde: Guarda che se fai così ci stiamo fino a domani. Aspetta, va, uso la giacca. Dai, usciamo così. Non penso che si nota. Il 32enne gli risponde: No, per niente. Queste sono le chiavi. Tu vai alla macchina, io passo alla cassa e vengo. Ok? Ok. In macchina i contatti sessuali diventano più espliciti, il cacciatore di sesso non esagera, vuole consolidare piano piano il consenso del ragazzo sedicenne. Si arriva alla masturbazione reciproca, ma non si va oltre. Ma il coinvolgimento sessuale del sedicenne è ormai totale ed è il sedicenne che propone il sesso orale. Il 32enne si fa pregare, dicendo: Non so, forse non è giusto, ma dai, mi sembra troppo, lasciamo perdere. Ma poi ovviamente accetta. e il sedicenne ha l'impressione di essere lui a guidare il gioco. A questo punto intervengono le rassicurazioni del 32enne sull'assenza del rischio AIDS. Il 32enne dice: "Non avere problemi per l'AIDS, perché io sono un donatore di sangue e sono controllatissimo. E poi io non ho mai avuto un ragazzo e non ho mai fatto sesso con nessuno, quindi puoi stare assolutamente tranquillo." Ovviamente non si tratta di un donatore di sangue. Un ragazzo 32enne che fa sesso al primo incontro con un sedicenne non è certo la sua prima esperienza sessuale ed è estremamente improbabile che un ragazzo che ha una vita sessuale promiscua sia un donatore di sangue, perché su questo punto i centri trasfusionali sono molto attenti a evitare il più possibile di mettere in circolazione sacche di sangue infetto. Quindi, o il 32enne mente all'intervista al centro trasfusionale, cosa veramente da criminali più che da incoscienti, o non può diventare donatore. L'unica seria rassicurazione sulla sieronegatività di un ragazzo si può ottenere facendo insieme con lui il test e ripetendolo dopo il periodo finestra, 6 mesi o anche meno con i test più recenti e più sensibili. Solo in questo modo si ha la certezza che il test sia stato effettivamente fatto e che i risultati attestano la sieronegatività. Fidarsi delle rassicurazioni di un 32enne che alla prima uscita con un sedicenne fa sesso con lui significa mettersi a rischio in modo serio. Il rischio AIDS basso, relativo ad alcune pratiche sessuali considerate meno pericolose, non significa che invece dell'AIDS, siccome il rischio è basso, si prende il raffreddore, ma solo che è minore la probabilità di infettarsi, ma se ci si infetta, si diventa effettivamente sieropositivi con tutto quello che ne consegue. Usare il cervello in qualsiasi contatto sessuale serve a salvarsi la vita. Il sedicenne, al termine della sua prima esperienza con il 32enne, non si sente né depresso né vittima. Si sente grande, ha l'impressione di poter portare un ragazzo più grande a fare quello che vuole lui ed è anche soddisfatto di sé. Considera quello che ha fatto un'esperienza d'amore e di passione e vede il ragazzo 32enne come il suo ragazzo. Vorrebbe diventare il centro della vita di quel ragazzo, vorrebbe conoscere ogni cosa della sua vita, in pratica vorrebbe costruire con lui un rapporto di coppia. Ma è proprio qui che la cosa va in crisi. Il 32enne ha la sua vita nella quale il 16enne non può e non deve entrare. Il 32enne non è disponibile quando vuole il 16enne, ma deve essere il 16enne ad essere sempre disponibile ad ogni richiesta del 32enne. Di test per l'AIDS non si deve nemmeno parlare perché la risposta è sempre la stessa. Te l'ho detto che non c'è nessun rischio. Meno che mai si potrà vedere il tesserino dei donatori di sangue, si potrà invece vedere il risultato di un test HIV non recente da cui risulta che il 32enne è sieronegativo. Questo però significa una cosa sola, e cioè che il 32enne ha avuto in altre situazioni il timore di essere sieropositivo. E per questo ha fatto il test, cosa che non rassicura affatto. I ragazzi che non hanno mai avuto rapporti sessuali non hanno ovviamente mai fatto il test per l'HIV. Chi lo ha fatto deve aver avuto qualche preoccupazione connessa a rapporti sessuali con molta probabilità a rischio. Aggiungo una sola considerazione. Dopo un rapporto a rischio anche basso, che non significa senza rischio, in genere interviene la paura dell'AIDS, paura che purtroppo interviene sempre dopo e non prima, e i ragazzi fanno il test, che deve essere ripetuto a distanza di tempo. Tutto questo, comunque, toglie loro la tranquillità per molto tempo, anche se per fortuna non sono frequenti i casi in cui si finisce in sieropositività per un rapporto con una persona di cui non si sa con certezza che è sieronegativa. Il rapporto tra il 16enne e il 32enne si conclude quando il sedicenne si rende conto di essere un diversivo sessuale e nulla più. È allora che intervengono i sensi di frustrazione e di smarrimento e si ha l'impressione di avere buttato via la propria sessualità con una persona che altro non era che un cacciatore di sesso. E se si è trattato della prima esperienza sessuale, un'esperienza del genere condizionerà per un bel po' la sessualità del sedicenne. Ma una cosa va detta. Anche se è meglio usare il cervello prima e non dopo, è comunque bene cominciare ad usarlo. In conclusione, storie come quella riportata in questo capitolo non hanno nulla a che vedere con l'amore gay. Sono storie squallide, di abbordaggio senza scrupoli e di ingenuità, due ingredienti che, se messi insieme, diventano pericolosi. L'amore gay è una cosa seria e ha bisogno di crescere su una base affettiva vera. Non si tratta di provare un'esperienza, ma di amare una persona. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.